senza produzione, una cosa bella, già ti fa compagnia, tutto quello che smuggono, se smuggi, però ti vuole la massima attenzione, soprattutto lì che la vuole fare il corso, erano enormi, li prendi qui. Lo so, se i cani vogliono accuditi, io ne ho due qua, ma senza contare per quelli poverini che ormai non sono più, però devo dire che ho speso parecchi soldi per quanto riguarda vaccini e cure che sono andate purtroppo non bene, perché qua c'era il periodo della zanzara, delle smaniosi, quindi cani infetti che fungevano i miei e purtroppo li ho fatti anche sopprimere qualcuno, perché effettivamente era lo stato proprio brutto e quindi niente. E vabbè, però sinceramente parlando io sono anche un po' contrario ai vaccini, devo dire la mia, io ho dei cani che a uno addirittura non ho mai fatto i vaccini e grazie a Dio non si è mai ammalato, uno mi è morto dopo credo 10 anni, ma perché si è azzuffato e un pastore tedesco gli ha bucato un polmone, ha rotto qualche costola, quindi non è morto di malattia. Quest'altro che ho è sempre un simile di quello che avevo prima, perché è un bassotto tedesco però ruvido, non è mai stato vaccinato e non mi interessa vaccinarlo, perché è vero che oramai ha già 6 anni e credo che non si attacchi nulla a questo qua, perché è come uno zingaro, credetemi, è come uno zingaro che si è fatto degli anticorpi alla meglio. Lo so, Gianni. In campagna magari non farti, ma io vigile in città, mi fermano le guardie zuffe, mi controllano il libretto e vedo che non è vaccinato di guidare i lugari e ti mettono multe esorbitanti. A me mi hanno fermato in testa della meridiana, mi hanno avvicinato, quella macchinetta che quando tu trovi il microchip fa pi come ha suonato, infatti si è spaventato e gli si stava tirando addosso. Ha fatto il tempo e il tempo a lontana, si è detto, non ti sto facendo nulla, e il tempo lui ha fatto così. Operaio, qua 5:20, stavo domani mattina, ciao a tutti. Antonio, ci sentiamo, buonanotte, avanti. Veglia, ciao Antonio, ciao. Va bene, va, ci sentiamo, avanti, si apri. 5:00, ciao Antonio, buon tutto, e ci sentiamo domani, se coincide, capitato domani, domenica. Poi c'è un'altra che non c'è fare, e capito, la fare non sempre, però non come noi, oggi è stata un po' complementata la cosa di sé, era sempre in calcio, però voleva fatta perché una mano è stata da lavorare. E così andrò a domani, un po' al lupo per questa notte. E niente, il cane, io da quello che ho fatto il vaccino, non mi trovo in lupo. Non mi sono fatto male, sì. se sono fatto male o niente, poi mi siamo mangiato, io stavo maratonando e mia moglie non ce la faceva più, hai capito, perché vuole ha finito, finito il corso di caduta tra gente, vicino, non potevo lasciare, già lo sai, facevano, facevano di giugno, non guardo che c'era la cuccia, però quello che tutto faccio ogni giorno l'ha strellato, messo a posto, metti dell'acqua perché la via è in estate, perché si scalda, qui da mangiare, fratelli, la limitazione. Ok. Anche per tutta niente. Non abbiamo mai ancora di consigliare già. Dare, dare. Ecco che erano troppo quelli di i comuni, perché anche la nostra luce la famiglia, cioè il cancello di quel costino al paziente da mio figlio, il cane è proprio inviato pronto a saltare lì addosso, e quindi io se prima di capitare qualche cosa, perché non ci siamo qui nel valle, di cui inviato. E poi rotterai, sono cani particolari, bisogna stare molto attenti, si girano anche al padrone in certi casi, sono cani un po' aggressivi. Oh, anche il mio non scherza, se non conosce la gente salta addosso, il mio non è grosso grosso, però ti tira, ti butta in terra, secondo come ti tira, secondo che cane è verde e cosa che si vuole avventare, ti tira di colpo. Un giorno stavamo passeggiando col cane a guinzaglio, questo qui c'è quel cane, ha mollato il cane per farlo correre, questo cane vede a Tyson, comincia a dargli incontro, io occhio a Tyson, si è girato, questo cane va per morsicarlo, l'ha pigliato e si è alzato su quattro zampe, l'ha preso, come gli stava saltando addosso, mi ha tirato e mi ha buttato in terra, mi ha rotto tutti i pantaloni. Infatti al padrone di noi, di colui, gli ho detto che il cane così non si teneva, che per gestire il cane bisogna tenere la guinzaglia, ma non l'ha mai fatto, non l'ha mai fatto, mi stai, adesso mi hanno tanti i pantaloni per colpa sua, e chi me li paga i pantaloni adesso? No, guardi, mi scusi, poi ho visto che era una persona come si deve, non ho fatto più troppo tempo e tanto, però mi ha dato fastidio, mi sono sbucciato tutto il ginocchio. È un casino, io l'ho avuto comunque, io qualche anno fa l'ho avuto un maremmano già, credimi che effettivamente la mentalità dei maremmano è quelli che insomma hanno solo un padrone, quindi tu pensa che a me arringhiava mia madre, mio padre, ma arringhiava però senza girarsi, però intanto era diffidente. Quando lo guardavo lui abbassava gli occhi e abbassava la testa e faceva il tranquillo. Una volta si era permesso di mettersi sotto la mia macchina, allora è nettata e piena, quindi c'era un caldo, se ti puoi immaginare che lui cercava l'ombra, no? Perché il pelo che ha poi è una pecora. E gli ho detto, Igor, esci da lì sotto. Ho sentito la ventana, cioè, come arringhiare, no? E ho detto un attimino. E sono andato da lui con un male così dagli altri, di quelli pesanti, e gli ho detto, Igor, esci da lì, ma proprio minacciandolo, no? E questo qua mi ha ringhiato, gli ho tirato un colpo a muso, gli ho fatto perdere tre denti, è iniziato a correre nel fondo della campagna, è venuto dopo un giorno, perché era sempre là in fondo, perché sapeva che aveva sbagliato, no? Quando è venuto, sai, i classici cani strisciando piano piano e pronti per mettere più me. E quei cani sono autonomi, sono molto a sé, non hanno molta retta, sono proprio autonomi di carattere. No, che quando le dicevo così io già sapeva chi era l'alfa. Bisogna farsi rispettare questi tipi di cane, perché se no ne approfittano su di te. No, il cane lo fa sempre fino, quando sta riposando, cosa che tu lo disturbi, fa, oh, anche taglio lo fa, tiro. Appoggio io, e lui si può, mi rende, capito? Capisce che sta sbagliando. Vabbè, ma sai cos'è che sinceramente io l'ho avuto da piccolino, proprio, quindi con me non aveva maniera di girarsi, però si poteva girare mio padre, mia madre, mia moglie, quindi sai, devi far vedere chi comanda, perché non è che poi si prende sopravvento, non è che alla fine lui deve subire, non deve comandare. Vabbè. Deve ubbidire, certo. Vabbè, ci sono diversi tipi di cani che hanno un carattere a sé, capito? Sono molto testardi, non ti ubbidiscono quando li chiami. Ci sono dei cani che come li chiami arrivano a ratto. Ci sono dei cani invece che, tipo, i cani ubbidienti sono il Curly, il pastore tedesco, tutti quei cani lì sono molto ubbidienti. Ma per dire il mio c'è un carattere molto autonomo lo stesso. Ce l'ha scritto, se vuoi un cane ubbidiente, non prendere, come si chiama? Vabbè, già mi è capito, adesso non mi vedo il nome del mio cane, rimaci. Ah, del tuo? Sì, a non prendere, ma, lo Sharpie. Ma lo Sharpie non è quello cinese? Sì. C'è lo Sharpie cinese e quello americano è quello che c'ha l'uso largo, che sembra un ippopotamo, e l'hanno incrociato gli americani con Ciu-Ciu. Invece il mio è la razza base, tutto lo Sharpie. Ho capito, no, perché c'è una nicchia che ce l'ha, lo Sharpie, però è proprio... ma lo dice anche lì stesso, no, questo non pronta, non obbedisce. Sì, sì, è così, c'è quel carattere. Gli americani vogliono sempre strappare. Quando hanno fatto lo Sharpie americano, quello con l'uso largo, hanno dato solo problemi, perché quelle pieghe gli si formano una dermatite, si può essere un po' di dermatite, se non ripassi questa pomata ogni giorno. Queste pieghe gli dice che vi puzzano anche. Beh, allora, già ne riprendi. Sì, queste le signore stavo pensando, io rispetto il cane, come ha detto il nessuno si deve fare di più con la gente, invece lui si poteva fare tutto quello che voleva, sono scendo in baccalaureo nella casa, il cane l'aveva proprio buscato, quando bisogna fare di più, invece là, il frate si chiude, tutto quello che voleva, ha buttato il divano in pelle che c'ha lui per la sua e niente, lui in piedi il cane non scelava da lì, non scelava, era lui, padrone di casa, era lui, sì, a che qualche modo ce ne fanno sia a pranzare o a cenare, il cane lì ormai era il padrone, così, e capito, c'è fatto il suo, lui si, non mi si era, purtroppo però... ha detto che la mia ha fatto una sorta, la sorta di legge che ha lì, che è stata a casa sua, e la sala che la porta a scrivere, ho capito che la sala che la porta a scrivere, in due, tre volte, lei è mangiata e l'ha messa, che è scusa, mangiata quella, ha fatto la legge a Madrina, che è continuato a lei, non è stato la legge a lei, ma in tutto quello che c'è attaccata la legge, un fatto di studio, perché il netto è qui, come si chiama, sempre il pensiero, quando l'ho portato in giro, brucia, copertina, comunque poi mi ha dato un tanto il figlio, mentre la moglie nuova, perché sono pericolosi, cioè noi ci facevamo là, non so cos'è, più saltanti su al cale, che il cale c'erano due o tre persone, quando l'ho portato in casa, che non erano tanto simpatico, si metteva in giro a fare, è anche figlio la storia. Non mi sono mai attento, però non mi vuole, non mi abbiamo mai messo perché mi ha dato la settimana, quindi non mi chiedo la mia, eravamo inventati in giro di quelli, guarda io non avrei paura perché ci vuole male bene, però avevo paura che ci avventate a qualche modo, e a che giorno mi canto ci avventa secondo il tuo collegiale, quindi abbiamo preferito dargli, dicevi. Allora io avevo un collega perché c'ero ancora, ma io non sono più, non sto più lavorando, qui non è più mio collega, che aveva due cani corsi e abitava lì sulla Budi, dove c'è il ferro vecchio di cose, come si chiama, di Gosmino. Beh, c'ha questi due cani corsi, cazzo, gli hanno soltato una rete alta 3 metri. Hanno saltato la rete e sono andati a morsicare il cane in questa campagna vicino, l'hanno fatta brandita. Il cane, insomma, poi se se la prendendo è quella, non è che se è animo cattivo, no, non ce n'è. Sì, ma poi i cani corsi saltano, muretti alti, reti, tutto. Fanno dei salti tipo i gatti, insomma. Ma io avevo intenzione ultimamente di prendere un cane corso oppure un Rottweiler, adesso vediamo cosa. Oppure come si chiama quelle, cioè Rottweiler oppure il Pitbull. Ti vuoi mettere nei calzini, ti dà. Cosa? Ti vuoi mettere nei calzini, calzini che ti diano problemi, cazzo, sono cani, quelli sono tutti cani che ti mettono nei calzini, tipo si piangiano altri cani, un calzino, devi mettere le gatti, quelli. No, guarda, io ti dico la verità, allora, ultimamente da poco il mio vicino, infatti avevo mezzo, gli ho chiamato anche Barracelli, perché effettivamente questi cani entravano in campagna mia e insomma facevano altri potenti, prima di difenderli tra virgolette, perché ho la possibilità di farlo, ho detto vabbè, non voglio arrivare a quel punto di prendere il fucile e sdraiarli, chiamo un amico Barrancello, che abita qui vicino, ho detto fa favore avvicinati qua a casa perché c'è un nuovo inquilino che ha 7 pitbull, siccome entrano in campagna, io ho dei figli piccoli, non vorrei che arrivare al punto di bisticciare, non solo le battaglie cani, magari di partire anche qualche colpo di fucilata al testa uova, perché effettivamente se mi toccano un bambino io poi giro di testa, no? Effettivamente è venuto, li ha controllato i cani e non erano in regola, quindi li ha dovuti far mettere in regola, farli regare, dicendo che erano pericolosissimi questi cani qua. Poi, moro della favola, stavo facendo la rotella, stavo facendo le olive, quindi si è avvicinato alla moglie che effettivamente ci conosciamo da bambini. E non mi dire che sono di più questi cani, ho detto sì, e allora fa una cosa, amica mia, lei o stai attenta perché se entrano qua io guarda li faccio uscire con i catti. E lei cosa ti ha detto? Ma ha detto guarda non me li ammazzare perché sono bravissimi. Ho detto guarda, io sinceramente parlando ho detto non lo so perché avete il cane, però non vorrei, siccome io e i miei bambini giocano alla bicicletta, sai, no, ti ricordi in campagna mia che c'è una lunga discesa, adesso non so se ce l'è presente, quindi loro vanno in bicicletta, salgono, i cani entravano, quindi facevano la padrone, ringhiavano, addirittura ringhiato anche a me, io a un certo punto ho preso una pietra e ho detto cazzo guarda, non sono riuscito a darla, però se lo davo l'ho ammazzato, per dare la pietra che avevo, e poi se ne è fuggito questo cane, adesso non so perché, magari non mi ha voluto affrontare, non lo so, però ero dentro casa. Beh, poi sono cani molto pericolosi quelli, sì che conoscono la gente magari, ma c'è quello che ha dannato a Tyson, l'ha dannato solo perché aveva una museruola, se no si sarebbe girato a Tyson, andato a girarsi, ma con la museruola non poteva fare niente. L'ha preso cazzo dal collo sino all'orecchio, e nel collo non gli ha fatto nulla perché c'era un po' di pelle, no? Ma nell'orecchio gli ha spaccato l'orecchio e gli ha dovuto mettere in punta. È un casotto perché io sinceramente vorrei un cane dove va bene con i bambini, cioè che protegga i bambini ma allo stesso tempo che faccia guardia e riesca a proteggere il suo territorio, capito? E dovresti farti una cosa, legarmi con la catena, metterti un coso di inferno da un albero all'altro, di modo che il cane si può muovere davanti alla casa e così non si avvicina a nessuno, però non può uscire dal tuo territorio, capito? È un casino, però sai, non è che posso stare anche a fare queste cose qua, a me piace per dire, ieri notte addirittura sono uscito forse alle 4 o 5 del mattino, perché il mio piccolo stava sempre abbagliando, quando abbaglia così sono sicuro che o trovo un riccio oppure c'è un gatto sopra l'albero, quindi sono dovuto andare, per farlo smettere, sono dovuto andare con quel plunghe che usi per tingere il soffitto, no? Noi lo chiamiamo metro lungo, è un batto bastone comunque che si allunga per farlo scendere dall'albero, perché sennò stava ore e ore sempre abbagliando. E vabbè, riprendi già, sennò ti lasciamo troppo in bianco. Ho già ascoltato anche qui, e sono vissuta l'esperienza con le sacrosante, insomma, tutto. Noi abbiamo, anche quando ero in uccello, che mi ero compiato l'allarma, sono arrivato a salvo, ci avevo dato un bagno, parlavo tutti strani bianchi, era tutto qui, non mi sono fatto leggere, non era proprio le male di mano. Cosa ha fatto mamma? Prima di iniziare la scuola ha preso in quelle pappotte nuove, però la pianta di mia sorella, pensi, si slega questo cane, e pappotte sta facendo, e si fa proprio la sorella, e il cortile c'era per una tassella, se no ci vuole un ufficio, fai il conto che lui non c'era sano, quindi il cortino si svega e lo sbrama, capito? E per quello gli abbiamo dati, per quello, però anche io non stavo parlando, perché mi sembra che me lo faccio, che non sono quelli dove sono, perché ci vuole attenzione, ci passa un attimo, basta un attimo il cane gira di testa e come ragiona, ma non come si chiama, un flash che viene, hai capito? Quindi, e poi sono a parlare, ma non sbagliavano tranquillamente, erano milioni, hai capito? Però se uno passava davanti al cancello, io era, allora non ho più. E se ti capitano uno o una cosa, tutta la notte stava tagliando, e lui come ha fatto, mi ha regalato quel cane. Quindi la stessa cosa proprio ho fatto con Colini in Colombia, una faccenda proprio sotto dei fumi che si è stata presa, non si veniva la notte, però si trovava anche i genitori di mia madre che abitavano nel piccolo un'epoca. Allora, questa povera cosa l'ho preparato, però questi corsi, tali corsi non andavano a partire, erano pericolosico nel senso che quando è arrivata a piedati che io dico che è passata gente che già era proprio rinviando e io sento come il cancello era sempre bene finito o come col passante se io lo sbaglio sempre così non posso arrivare quindi prima di succedere ho detto via Mattia, dico via. Ma adesso per fare che se uno non può tenere i cani non li deve prendere dall'inizio perché poi anche loro soffrono se tu li dai a un'altra persona quando sono grandi soffrono il fatto che quando li abbia abbandonati così sì, nel maschio il piano non è fregato a nulla quando li abbiamo dati la femmina già non ci vuole far salire sulla macchina ed è perché era pressionata mia moglie, è salita mia moglie nella macchina, e allora il cane è entrato nel cofano, e non ci voleva, ragione così, io questa cosa ho pensato, il cane ha detto, che abbiamo fatto dei milioni di soldi tranquillamente, però ripeto, prima il mondo era sempre in casa, poi è capito, stava lavorando lui, tu è stata lavorando io, e purtroppo mia moglie non poteva stare piantonata, mi sembrava anche tre volte al giorno che quattro comuni o comuni che a noi facevamo i fumi dalle quattro alle notte il cane chi era lasciato i cani perché erano due quindi sempre come si chiama di Cisteria che uso era l'estate che trova gente qui e là perché era abile ha saltato un muro che sì guarda io l'ho meravigliato un muro alto ha saltato un muro guarda mi ha visto. Questo muro era un metro e mezzo, saltato là, hai capito, che c'era nel cortile quello che aveva fatto proprio, che si metteva in saltato là, quello era quello lì, bisogna stare attenti, il cane era altissimo, era, nonostante che ci aveva una scatta non indifferente, e quindi abbiamo diciamo, forse ripari, cioè non posso prendere il lavoro, era quindi il lavoro, però con dispiacere, perché a mio giorno il cane, si ha questo ma è nel solito, un punto di È vero. E vabbè, però sai, un conto è quando sei a casa in città, un conto quando sei in campagna, che devi essere un pochino, insomma, sugli attenti, perché qua in zona mia, bene o male, grazie a Dio qua, proprio dove sono io, ancora non ho sentito niente, però un po' più avanti di me ci sono stati dei furti, e, insomma, bisogna stare attenti. E quindi bisogna prevenire meglio che curare, come si suol dire. Quindi se uno ha la possibilità di avere una guardia in più, insomma, non fa male, anche perché il cane, perlomeno per me, è un campanello di allarme, perché io bene o male sono sempre su chi va là. Se ho un avviso, dormo con l'occhio aperto, capito? Quindi se non ci fosse, magari mi potrebbero anche fregare. Va bene, dai ragazzi, io vi saluto, perché anche stamattina, meno male, tra una cosa e l'altra, anche avendo la possibilità di riposarmi, mi sono alzato alle 6, come ogni giorno, quando sono abituato ad alzarti presto. Quindi sto facendo un po' di orario per poter dormire qualche oretta in più magari domani mattina e riposarmi un pochino. Va. Mi approfitto ora che ormai che Gianni ti saluto, KP2, Gianni WRU, lo stesso, saluto anche l'eventuale ascoltuno, intanto non mancano mai, fa piacere anche che ci siano anche loro, basta che non rompono le palle come alcune volte succede, comunque. A me non mi interessa. Va bene, ti rilancio il mic, Gianni, doppio room, aspetta i saluti per voi, E dai, ciao Tino, ti auguro buonanotte, dai. Avanti, Gianni Campino. Sì, questo è il ciao Tino, buongiorno qui, buonanotte, ci sentiamo alle prossime linee, ma domani, se coincide, già oggi sono io, qualche più, ho lanciato un paio di cose, ho attaccato l'altro apparato per controllarlo, perché saluta, non problemi, capito, sono così scarsi di connessione con le reti, mamma mia, dobbiamo stare appena più di invece, perché sono, quindi stavo verificando quello, ecco, quindi tanto mi ha fatto una cosa qui, e per trovare le cose. Dopo, grazie, sì, siamo soli, a domani, ciao, ritorniamo anche io, adesso lo stacco, questo lo trovo là, e so dove cominciare, perché lì attaccato da capo, quindi non so, capito, perché non ero, diciamo, oggi all'orario, sono di un'altra cosa, però la notte io stacco sempre, tutto anche a una temporale, le cose, capito? Aspetta. Quindi, sì. Un'altra cosa cambia la situazione. Io così mi cambio che anche io sono un prodotto, ma sto facendo quello proprio anche in altri canali, hai capito, soprattutto come le cortino dei eventuali amici che sono in ascolto, e auguro una buona notte a tutti qua della Calagna. Ciao ciao. Aspetta Gianni, KP2, un'info, mi chiedevo se avevi qualche tanner a disposizione da vendere, che mi interessa qualcuno. Ma se io? Come? Se io un tanner? Se ne hai qualcuno tuo a disposizione da vendere a me. Contati solo, sì, anche sì. Contati, ma non è di poco di linea, quelli non li do, ne ho quattro di linea, quelli sono grandi amplificati, non li do, sono nella scatola, perché con le linee, sia le strade, che sia solo, ma intanto c'è una linea vecchia ottomana, quindi per posizione. E poi c'ho i cuni, c'ho un plus 3, un plus 2, però sembra da intenere, perché sono tanto tempo che non li stavo usando, hai capito, sì, non li ho per il momento. Devo scendere in Campidano, dirgliela che ci sono gente che conoscevo, quando l'ho arrivato a mandarma, che sono stati di là avanti, mi hanno portato una, ho cambiato due conversazioni dell'alimentazione perché l'ho usata, hai capito, l'ho usata, e devo scendere già, ci sono ancora gli apparati, ma è gente che non mi... E allora lo scendo, facciamo un giro, e ho capito, se c'è qualche cosa di interessante, mai c'è qualche farne, hai capito, ma perché sono anche troppo. Penso se non funziona di comprare un vino anche uno, perché la faccio adesso con la stessa dentro, magari c'è la capsula che è andata a finire male, con le capsule sono difficilissime a trovare. hai capito, dopo l'originale non la trovi, c'è un attacco, c'è un diploma, prendi un minuto e partita, io non avevo qualche nulla di quelle lì, non so perché io non so, perché la fisarmonica elettronica, elettronica americana e con amplificazione americana è montata nella parte dei tassi, quelle tassi lì, e qualcuno l'ha proprio recuperata da gente che aveva cambiato l'amplificazione, le fisarmoniche, le avevano messo in aria, l'ha eliminato e mi ha dato. Però che sì, i microfoni sono da controllare, io tanto che non uso, ho capito c'è io, ma quando vado a fare una riforma, anche quello del coro, del Sommerkand, che è stato da me il manuale, la cassa è partita, perché se non usi si impiora, non lo so. E quindi in quel momento non c'è nulla, però se procuro qualche cosa tranquillamente che io la gente la devo vedere contenta, lo so sempre. Tranquillamente che te lo procuro, dai. Ma va bene, dai, no, non è niente di, insomma, io lo stesso già, se voglio qualcosa da procuro, ma era giusto per averla, non fare lì a chiedere niente a nessuno, me lo compro, se va bene lo provo, se va bene lo tengo, dai. Ok, dai, vi saluto, QRT esecutivo da parte mia, ciao, riprendi Gianni dopo il rumore. Ciao Tino, ciao anche a Capito, dai, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, buonanotte. E poi io rimango ancora che ho trovato l'altro canale, un altro canale, a vedere, hai capito? E così non siamo attaccati da parte, ma se ne va via l'altra cambia, hai capito? Come non è la stessa cosa, siamo dentro dentro, mi dai il che non ti chiama suo, e quindi è la cosa pure sua. Ok, vi voglio a domani, buonanotte, ciao ciao.